Eccoci con Filippo Gatti, ben ritrovato Filippo. Ciao, ecco. Come state? Bene, tu? Benissimo, sono qui anche con Aria. Buongiorno. Ah, bene, così vi potete alternare alle risposte. Allora, cominciamo con l'appuntamento di domani. Allora, presentiamo lo spettacolo, chi lo fa di voi? Varianda. Ok. Sul parco del Teatro Biblioteca Quarticciolo e l'abbiamo scritto insieme, ecco, questa è la sintesi. Benissimo. Diciamo, io lo recito e Filippo vi racconterà. Vota Kurt Cobain, non l'abbiamo ancora annunciato. Esatto, il titolo è Vota Kurt Cobain. Vota Kurt Cobain. Allora, partiamo dall'origine di questo testo. Raccontateci un po' qual è stata la spinta. È stata un'idea che ha avuto questa matta che ci ho seduto vicino a me, che un giorno ha detto: qui basta che faccio una pagina Facebook tipo Vota Kurt Cobain, faccio un movimento politico, magari vinco le elezioni. E ha fatto questa battuta per dire che questa è l'unica soluzione ormai che ci abbiamo, e io ho pensato che era un'idea talmente divertente e bella con questo titolo che valeva la pena provare a scriverci un piccolo monologo. E poi nel corso del tempo questo monologo si è trasformato, collaborando con tante persone che ci sono vicine e che lavorano nel teatro, ed è diventato un vero e proprio spettacolo. E domani sera lo proviamo per la prima volta su un palco all'italiana vero e siamo molto felici di questo. Una data secca? Sì, per ora sì, è come se fosse una cosa tipo o la valla spacca. Senti, ci dite qualcosa un po' sull'allestimento, se sono previste anche musiche? L'uso della musica in questo, io ho pensato proprio, essendo un musicista, di fare un uso della musica diverso dal normale, nel senso che durante tutto lo spettacolo ci saranno fondamentalmente un leitmotiv di suoni di elettronici, di suonerie, perché è lei che risponde al telefono, risponde ai computer, eccetera, e quindi queste suonerie anticipano il tema di due brani musicali importanti che hanno significato per lo spettacolo, che invece si ascolteranno poi soltanto alla fine. Quindi non ho usato una musica durante lo spettacolo, proprio perché per dare tutta l'emozione della musica al finale, e perché come musicista mi sembrava più interessante svuotare che mettere. Senti, abbiamo parlato un po' della spinta che c'è alla base di questo spettacolo, diamo anche qualche indicazione sommaria di trama a chi ci sta ascoltando? Certo, ovviamente. È la storia di una donna di circa 40 anni, una ragazza come tutte noi, che si sveglia una mattina e scopre di punto in bianco di aver vinto le elezioni nazionali. Tutto questo perché aveva una sera creato una pagina su Facebook con un'amica, per scherzo, con un movimento politico che ha proprio chiamato Vota Kurt Cobain. E da lì ovviamente lo spettacolo si apre a una serie di sorprese, perché racconta la giornata di questa persona che si sveglia come tutte le altre mattine e deve affrontare questa cosa, questa enorme cosa che le si para davanti, insomma, che stava con questa sorpresa. E il resto non te lo dico, Federico. A parte che ci sarò. E poi la curiosità è rispetto, poi ne abbiamo parlato già tra di noi in più occasioni, Filippo, volevo sapere che rapporto stanno realtà e finzione, qual è che supera l'altra? Ma guarda, hai centrato, perché diciamo lo spettacolo adesso piano piano che riusciremo a farlo tenta proprio di scardinare questa immagine mentale che noi abbiamo di qual è la realtà, perché viviamo tutti in una specie di realtà che in realtà non è reale, e che è simbolica e che ci convince che il mondo sta andando in una certa direzione, ma è una nostra, diciamo, siamo ipnotizzati. John Martin diceva che siamo ipnotizzati dalla realtà. Questo tipo di, lo spettacolo tenta di, è un gioco, è uno spettacolo da un lato divertente, dall'altro serio, che tenta di far uscire lo spettatore con una domanda su quanto tutto quello che lui crede essere reale lo è veramente, oppure non lo è. quindi diciamo gioca su un, la premessa è surreale, ma poi minuto dopo minuto lo spettacolo va sempre più dentro. Mm-hmm. Quindi questo è il tentativo che stiamo facendo ora, è un tentativo che fanno tutti quelli che scrivono, poi ora noi l'abbiamo realizzato in questo modo, vediamo come funziona, è la prima volta che lo proviamo con un pubblico vero, quindi per noi è veramente una grossa prova. Se c'è qualcuno che ci vuole bene personalmente a me o a questa matta qua, ci venga a sostenere stasera, perché domani sera. Okay. Domani sera, no, anche questa sera ci vediamo tutti quanti a Barezzo, poi dopo vi dico dove, lo scrivo sulla pagina Ruta Cascopenti di Facebook, che tra l'altro la quale teniamo perché abbiamo fatto una pagina che è proprio, diciamo, ironicamente la pagina del movimento, quindi stiamo mettendo tutti i contributi di amici che dicono Ruta Cascopenti, ci stanno, cioè, giochiamo con la pagina fa parte dello spettacolo, l'idea è quella di iniziare col teatro, poi far crescere la pagina e poi vincere le elezioni realmente. Esatto. Senti, perché proprio Cascopenti? Perché è un simbolo della nostra generazione, è un simbolo di qualcuno che si è trovato dal giorno alla notte a essere molto importante, avere una grande responsabilità e si è bruciato, perché è come se tutto il mondo fosse caduto in un down dopo. È simile, secondo me è una cosa simile, ovviamente mi permetto di fare questo paragone appellandomi alla tolleranza degli ascoltatori, però è simile a come è la fine degli anni 70 con la morte di Pasolini, cioè c'è stata un'alzata negli anni 90 che è stata interrotta, diciamo, da questo evento anche a livello mondiale, da lì si è creato un periodo molto buio di globalizzazione pazza. E quindi ritornare a quel punto per me significa, e per Arianna, per noi significa come ritornare giovani, ritornare al punto in cui tutto è finito per ricominciare da capo. Benissimo. Esatto. Allora, i riferimenti ci sono, c'è la pagina Facebook Vota Cascopenti, l'appuntamento è per domani, mercoledì 30 novembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo, ci si vede lì? Magari. Sì. Grazie. Io ci sarò, poi vediamo. Ok. A dire anche agli ascoltatori che comunque, a parte tutto, tu sei stato uno tra i primi che ha saputo che avevamo questo progetto, che ci ha sostenuto, che ci ha dato fiducia, che ci ha detto che ci avrebbe ospitato, quindi per noi è molto importante te e la radio da cui stai trasmettendo, come, cioè è la primo media per noi, per questo spettacolo, questa radio è il primo media a Roma in assoluto, quindi noi siamo molto felici e vi daremo qualsiasi forma, se volete che veniamo là ogni tanto a farvi i caffè ci veniamo. poi chiaramente lo ospiteremo qui lo spettacolo, questo è fuori di dubbio. Grazie Federico. Allora, un abbraccio, a domani. Ciao. A domani. Grazie. Vota Cascopenti. Ciao. Ciao.